siamo collegate con una compagna che ha lanciato un appuntamento per la giornata di oggi al Pigneto. Buongiorno. Ci Ciao sei? A tutte, buongiorno. Ci sono, allora, mi sentite? Sì, sì, sì, ti sentiamo. Ovviamente volevamo capire attraverso la tua voce in quale maniera si può scendere in piazza il 13 febbraio con altri contenuti e nuove parole d'ordine che non siano quelle riproposte comunque dal discutibile appello che è girato nei giorni scorsi. Allora, vabbè, intanto mi piaceva fare un passo indietro, nel senso noi abbiamo scritto 5 righe per invitare a una discussione, sì, proprio perché noi come Tuba, quindi l'appuntamento infatti stasera è da Tuba, perché un sacco di donne che attraversano il nostro spazio ci chiedevano: ma voi che fate, ma ci andate, bisogna andarci, no? Quindi siamo rese conto che la discussione sull'appello, una serie di cose, andava in parallelo a un piano invece molto più emotivo di voglia di dissenso. E abbiamo pensato che questa emotività e questa voglia di dissenso in qualche modo andavano, no, collettivizzate attraverso anche una discussione che però andasse a vedere che qual è la proposta in quella piazza e come si può stare in un altro modo, nel senso che noi crediamo che sia possibile pensarsi come presenza critica e in qualche modo situazionista all'interno di quella piazza. È una pratica che in qualche modo ci appartiene, nel senso che poi rispetto ai Pride, per esempio, spesso e volentieri il discorso di, sì, movimento è stato quello di un attraversamento critico. Ci sarà un sacco di gente, ci saranno un sacco di donne con cui credo che valga la pena poter parlare. Sì. Mi lasciate stecchite con un fiume di parole. Quindi comunque una partecipazione in cui si cercherà di esprimere delle differenze rispetto a una chiamata che coinvolge le donne, ma che si rivolge a delle donne come se fossero un soggetto omogeneo e privo di differenze. Ah, non solo, ma ci pensa anche come... ci definisce attraverso un legame di parentela con qualcun altro, quindi tendenzialmente un uomo, ci accolla il lavoro di cura, ci appella come italiane che devono salvaguardare la nazione. Insomma, evidentemente è un po' difficile rispondere a quell'appello per quello che è. Sicuramente le donne hanno un sacco di cose da dire in questo momento, no? Che sono altro. Oggi c'era un bellissimo editoriale di Giaba che invitava a scendere in piazza per Joy, per esempio, no, quindi non ci mancano motivi o cose altre da dire, da portare, perché le piazze sono fatte anche molto dalle persone, non soltanto dalle firmatarie di un appello che convoca. Sì, o comunque da personalità del mondo del giornalismo, della cultura, che stanno in questo momento dandosi, tra virgolette, visibilità, senza però tener conto che le donne sono sempre in prima linea nei conflitti e nelle lotte territoriali, dalle lotte contro i lager, i CIE, alle lotte contro la precarietà all'interno delle università, contro i tagli alla sanità, e credo che questi altri contenuti verranno portati in piazza. Oggi pomeriggio ci sarà quindi una discussione, giusto? Sì, nel senso, a me non va neanche di anticipare quello che secondo me andrebbe portato in piazza, nel senso che poi speriamo che come stare all'interno di quella piazza e quali sono i contenuti da portare sia una cosa che emerga dalla discussione di oggi. Sappiamo già, perché ce l'hanno detto, che le compagne che stanno dentro percorsi femministi, che hanno deciso di stare in piazza in maniera critica, passeranno a socializzare quali sono i contenuti che vogliono portare in piazza, e quindi speriamo che sia un momento, insomma, di messa in circolo di idee e di condivisione. Quindi d'accordo. Una delle cose che però proprio non sopporto di questa manifestazione, lo voglio dire, è questo discorso del silenzio, no? Che periodicamente viene fuori, tra l'altro se si rileggessero i propri editoriali o i propri giornali si renderebbe conto di quanto è patetica questa cosa, per cui puntualmente le donne dove sono e le donne non parlano e le donne stanno zitte, e a me questa cosa non mi appartiene per niente, e tantomeno mi appartiene il rispondere alla chiamata, peraltro, di un uomo che dice: donne, mobilitatevi, ora è il vostro momento di parlare, per cui non solo mi dici che io sto zitta, ma mi dici anche ora parla. Ecco, questa è la cosa che veramente... Ecco, io mi riaggancio per soffermarmi proprio su questa parola ora, cioè come se... Basta tacere, fino adesso è stato, e questo presuppone che fino adesso sia stato tollerato dalle donne una serie di atteggiamenti e comportamenti, perché non si esprimono. Tra l'altro, una delle cose rispetto a questo che noi abbiamo messo tra le cinque righe che convocano la discussione è proprio questa, nel senso, io nessuna sottostima nei confronti della mia vita o di quella delle donne che sono intorno a me, perché oltre a esserci tantissime donne che fanno percorsi politici, associazioni di donne, donne che fanno tante cose, che pensano, che agiscono, ci sono anche una marea, milioni di donne in questo paese che ogni giorno negoziano relazioni, lavoro, vite liberate, o quantomeno che provano a essere liberate, e io questa sottostima nei confronti delle donne non la approvo. Tra l'altro, all'interno di questo appello c'è un invito rivolto ai maschi amici delle donne. Che fa ridere senza alcun tipo di analisi, critica. Insomma, rispetto a questo. Niente, quindi comunque rinnoviamo l'appuntamento per oggi pomeriggio. Alle 19, via del Pigneto 19. Speriamo di essere in tante, di tirare fuori belle idee, di riuscire, ecco, a essere una situazione. Ti ringraziamo e comunque ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Un abbraccio a tutte, ciao! Ciao!